2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 19 dicembre 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Anche oggi siamo in diretta per parlare anche con gli ascoltatori di Radio 24, quindi se volete potete chiamarci al nostro numero verde 824 0024. Anche oggi parleremo in questa puntata speciale prima del Natale di quella che abbiamo definito l'elettronica da salotto. Sicuramente parleremo ampiamente di digitale terrestre, ma non mancheranno alcune domande. Tra l'altro sentiremo anche la voce di alcune persone che abbiamo intervistato in piazza per le strade di Milano sulla differenza, che è una delle domande che ci facciamo spesso, tra una TV al plasma e una TV LCD. Ci sono ancora molti dubbi, molta gente ha le idee confuse, invece per un prodotto che costa parecchie centinaia di euro oppure alcune migliaia di euro e che dura magari 10 anni o anche di più, bisognerebbe avere le idee chiare. Saluto Gianfranco Giardini, nostro esperto di audio e video digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina guida la redazione del magazine online dday.it. Ci sono parecchie notizie in questa settimana che avete pubblicato anche voi. Potremmo partire da una notizia che riguarda il mondo dei decoder. In questo caso potremmo dire riguarda il mondo di internet, il mondo della TV digitale terrestre, quella erogata via internet, quindi la IPTV. Telecom Italia ha presentato un cubo, si chiama proprio così, il cubo di Telecom Italia, che è una sorta di evoluzione della famosa Alice Home TV, però fa un passo in avanti. Sì, è praticamente quasi un media center completo e su una piattaforma assolutamente chiusa e quindi stabile, che permette di ricevere i canali digitale terrestre, ma di ricevere anche delle trasmissioni via internet, quindi IPTV, e di ospitare su un hard disk che è integrato proprio interno foto, video, musica, e di distribuirle ad altri apparecchi, permettetemi il termine certo non amichevole, ma DLNA compatibili. DLNA è lo standard di comunicazione tra apparecchi anche di marche diverse. Vuol dire che mettendo questo apparecchio in casa, effettivamente caricando su di esso la musica, i video, i propri video, le proprie foto, queste possono essere poi viste da qualsiasi altro client DLNA ci sia sulla rete, sulla stessa LAN di casa. Tanto per fare un esempio, una PlayStation 3 è un client DLNA, quindi una PlayStation 3 messa sulla stessa rete può accedere ai medesimi contenuti, ed è una cosa sicuramente che può essere comoda. Questa macchina, perché ho detto quasi un media center, perché da un media center completo ci si aspetterebbe anche la possibilità di registrare i canali televisivi digitali terrestri, invece questa macchina in questo momento non lo fa. Il punto di forza dovrebbe essere, almeno negli intenti di Telecom, quello di lasciare la possibilità a terze parti di sviluppare delle applicazioni specifiche, proprio come accade per esempio per alcuni smartphone, per alcuni telefonini come l'iPhone, e quindi permettere a queste terze parti di sviluppare tutte le applicazioni che in questo momento la macchina non svolge da sola. Chiaramente questo accadrà soltanto se verrà raggiunta una certa massa critica di installato, e qui c'è proprio la scommessa di Telecom. Riuscirà la forza commerciale, la penetrazione capillare che ha Telecom, a imporre questa macchina praticamente come standard di centrale nervosa, diciamo così, del tutto il sistema di intrattenimento domestico? Chi lo sa? Chi lo sa? Sentite dalle parole di Gianfranco Giardina quanti capitoli, quante ramificazioni si aprono. Beh, una, la cito, poi torneremo nelle prossime settimane magari ad approfondire, anche perché alcuni ascoltatori ce l'hanno esplicitamente chiesto, la tecnologia, cioè, o meglio, questo standard nuovo DLNA. Sembra un nome complicato, in effetti è un nome complicato. Non molto simpatico da ricordare, però è una cosa che dovremmo cominciare a ricordare, o comunque con la quale dovremmo cominciare a familiarizzare, perché poi si va in negozio e magari il commesso ci dice: beh, questo pensi è anche compatibile con lo standard DLNA, e uno dice: ma che cos'è? Sì, no, il maggior rischio è quello di prendere oggi un apparecchio che sia, per esempio, che abbia un hard disk e che possa avere dei contenuti condivisibili in rete, o che sia un client di rete, e comprarlo oggi non compatibile DLNA. Quello è il maggior rischio, perché effettivamente vuol dire essere chiusi rispetto allo standard che ormai diventato lo standard di mercato. Un altro capitolo che potremmo aprire, ma sicuramente apriremo o riapriremo nelle prossime settimane, è quello della registrazione. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato più volte, purtroppo, e questo sicuramente è un pugno in faccia ai consumatori, con l'avvento e la moltiplicazione dei canali digitali e delle offerte digitali, ci saranno dei seri problemi nella videoregistrazione, quindi questo è un... Ci stanno abituando a fare a meno della videoregistrazione, anche perché questo poi crea dei problemi invece ai sistemi magari di abbonamento, di pay per view, di video on demand, che invece si stanno fermando sempre più in questo momento. La TV via internet, quindi la TV che si può vedere anche con il cubo di Telecom Italia oppure con le offerte di TV via internet di Fastweb o di Wind, mi sembra che in Italia abbiamo finito la lista perché Tiscali ha chiuso la propria TV negli ultimi mesi, quest'anno dà la possibilità di avere un'esperienza on demand piena, cioè io posso scegliere una lista di programmi o comunque di film e guardarli quando voglio. Chi non ha la possibilità di erogare contenuti via internet, ma lo fa via digitale terrestre o via satellite, sta cercando di arrivare ad un'offerta quasi on demand. Cito, e questa è un'altra notizia della settimana, Sky Selection On Demand, che è l'offerta ed è un po' la risposta di Sky al Mediaset Premium, che offre questa possibilità. Non è proprio un on demand pieno, ma ci si avvicina. No, sono questi servizi lanciati prima da Mediaset, adesso seguito da Sky, per il quale nottetempo, diciamo, in un momento in cui l'utente non fa niente, viene scaricato sull'hard disk interno al ricevitore, e quindi già abbiamo detto un requisito, il ricevitore deve avere un hard disk al proprio interno, vengono scaricati una serie di contenuti che possono essere scelti dall'emittente oppure che possono semplicemente essere, man mano che il sistema andrà avanti, adeguati ai gusti che il consumatore ha già dimostrato di avere. Quindi se uno sceglie dei serial, magari gli vengono scaricati, questo non è ancora un servizio attivato, ma in un futuro si può pensare che sia abbastanza on demand, ecco, sì, che sia abbastanza sartoriale sulle esigenze di ognuno. Questi contenuti vengono memorizzati sull'hard disk e sono visibili in qualsiasi momento. In questo, per adesso, il servizio è limitato a, per esempio per Mediaset, a una cinquantina di film ed alcuni serial TV con un refresh quotidiano, nel senso che ogni giorno cambiano alcuni film, escono dalla lista alcuni, ne entrano altri, e quindi chiunque voglia, abbia il decoder abilitato e quindi voglia fruire di questo servizio, può sedersi davanti al TV e vedere che cosa offre il suo menu di contenuti già precaricati sull'hard disk, e se c'è un film che è interessante lo manda in play, lo manda in stop, lo può continuare anche il giorno dopo, lo può vedere, fino a che questo non viene poi cancellato dall'hard disk automaticamente. Bene, un'altra notizia, e concludiamo, diciamo, il capitolo notizie della settimana, riguarda un altro decoder, un'altra piattaforma, perché qua purtroppo l'escalation delle piattaforme è una costante degli ultimi mesi, degli ultimi anni, riguarda TVSAT. Allora, TVSAT è una piattaforma satellitare lanciata da Rai, Mediaset e una piccola fetta anche di Telecom Italia con la 7 MTV, per andare a coprire le aree dove il digitale terrestre non arriva, tipicamente le montagne. Sì, diciamo, nasce come piattaforma di garanzia per tutti coloro che non sono, come dire, favoriti dalla distribuzione del segnale digitale terrestre, che possono quindi affidarsi al satellite e vedere gli stessi canali. Questo effettivamente è già un servizio attivo, è iniziato, sono in vendita i decoder, in vero non tanti modelli TVSAT compatibili, ed è anche l'unico modo in questo momento comprare un decoder TVSAT che fa solo fondamentalmente quello pensato per TVSAT, quello di ottenere anche una card, perché serve una carta per poter decodificare questi programmi, che sono pur sì gratuiti, ma vanno comunque decodificati. Sono criptati. Sì. C'è stata un po' di polemica attorno al fatto che per avere questa card fosse necessario comprare un ricevitore, perché ci sono anche dei vecchi ricevitori che possono essere utilizzati a questo scopo, o anche degli altri apparecchi, diciamo, non certificati TVSAT, che funzionerebbero ma che senza card non possono dare accesso a quei programmi. Allora, per capire qual è la notizia della settimana, è con noi Claudio Zannoni, che è presidente di XDOM. Buongiorno, benvenuto Zannoni. Buongiorno a lei. Dunque, ricordiamo che voi siete un produttore italiano, italianissimo, l'unico produttore che fa un decoder che potremmo chiamare decoder unico, perché è possibile ricevere i canali del digitale terrestre, quelli di Sky, anche che è un po' una, diciamo, una eccezione alla norma, e adesso mi sembra di capire anche TVSat, dico bene? Sì, dice bene, sì. Quindi la novità della settimana arriva dall'Agicom, e qual è in pratica? Praticamente Agicom ha deciso insieme a Rai che le famose smart card di TVSat siano rese disponibili a tutti gli utenti che ne facciano richiesta e che siano in regola con l'abbonamento della Rai, quindi che abbiano pagato la sottoscrizione all'abbonamento Rai. Quindi questa qui è una grande notizia, perché l'utente finale, questo va tutto a vantaggio dell'utente finale, non sarà più obbligato a dover acquistare un decoder nuovo per poter fruire della piattaforma TVSat. Quindi insomma mi sembra una bella vittoria per i consumatori, ecco. Certo, e queste card si trovano tranquillamente ovunque in tutti i negozi di elettronica? No, ancora non è stato reso noto il regolamento attuativo, insomma non, l'idea di base penso che sarà quella, appunto, che chiunque sia abbonato a Rai faccia una richiesta direttamente alla Rai e riceverà a casa, almeno dalle dichiarazioni che si sono lette in questi giorni qui, riceverà a casa in maniera gratuita, solo con le spese, appunto, di spedizione e il costo vivo della smart card, la scheda per la sottoscrizione, ecco. Quindi voi siete contenti, perché diciamo che anche con il vostro decoder sarà possibile seguire questi programmi? Beh sì, soprattutto saranno contenti chi sottoscrive un abbonamento con Sky, perché con il nostro decoder potrà fruire delle due piattaforme senza necessariamente dover avere anche un altro due decoder, ecco. Ah certo. Stasera con un unico decoder, ecco. Questo principalmente. Ma voglio ricordare che comunque anche qualsiasi vecchio decoder dotato di common interface sarà in grado di fruire della piattaforma TVSat, per cui anche chi ha nell'armadio di casa un vecchio decoder common interface non dovrà spendere soldi aggiuntivi, sì, sono quello della camera. Quindi diciamo nel vostro decoder ci sono due fessure per la card, cioè c'è una per Sky o per che qualsiasi altro. Sì, nel nostro decoder c'è un lettore di smart card compatibile, insomma, licenziato da Sky NDS, e poi c'è uno slot common interface, per cui basta acquistare la common interface, il modulo di licenza condizionato. La CAM. La famosa CAM, esatto, famosa CAM, sì. Bene, Zannoni, buon lavoro e buone feste, visto che insomma le feste stanno arrivando. Anche voi, tantissimi auguri. A presto. Riprende questa puntata speciale di 2024, oggi in diretta con Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it. Adesso vi facciamo ascoltare alcune voci che Irene Privitera ha raccolto per le vie di Milano, alla domanda se ne sa qualcosa sul digitale terrestre. Prima che si passi ufficialmente al digitale terrestre bisogna prendere un decoder oppure un televisore col decoder integrato, per forza. Vantaggi del digitale terrestre rispetto all'analogico? Secondo me è solo una trovata per fare spendere altri soldi ai cittadini italiani, però. Allora, sicuramente le immagini in digitale sono migliori che in analogico, per carità, però ormai tutte le televisioni sono digitali, non c'era bisogno del digitale terrestre. Per il momento quello che riesco a vedere mi basta, per cui non mi sto ancora preoccupando. Quando non riuscirò a vedere niente andrò a chiedere al portinaio cosa bisogna fare. Ma ce l'ho, ma avendo anche Sky, a questo punto con Sky becco tutto, cioè. Onestamente è uguale all'analogico, ma è uguale anche al satellitare. Cioè io col mio televisore guardo il primo canale con l'analogico, poi lo traslo sul digitale, poi lo faccio su Sky ed è uguale da tutte le parti, quindi anche merito del televisore. Ah, ci sono tantissimi spunti che ci offrono l'opportunità di approfondire. Allora, la più facile, quello che dice con Sky becco tutto, non è proprio vero. No, non è proprio vero, sarà sempre meno vero, visto che molte trasmissioni sui canali generalisti Rai e Mediaset, per esempio, vengono oscurate su Sky, sarà possibile vederle se non tramite la famosa chiavetta di Sky, che ancora, è oggetto ancora di un contesa. Po' bloccata, e si vedrà che destino avrà. E quindi al momento, diciamo, non è proprio vero che con Sky vedo tutto. Sì. Comunque dovrei affiancare un digitale terrestre quantomeno per garantirmi che i programmi, chiamiamoli più importanti o premium, che vanno comunque gratuiti sui canali generalisti, non vengano oscurati. Oppure uno spegne la TV, ascolta solo la radio. E risolve, è una scelta. E risolve qualsiasi problema. Una cosa interessante, perché come abbiamo sentito tra gli non ho detto che sia un ascoltatore, ma le persone che abbiamo sentito, c'è ancora molta confusione, analogico e digitale. Allora, non è detto che se una cosa è digitale sia meglio dell'analogico. Assolutamente no. Diciamo, potenzialmente può essere decisamente migliore. E la cosa che fa la differenza, che decide se è migliore o no, è il livello di compressione, che sul digitale si può fare, in analogico no, però secondo quanto comprimo il segnale vado a degradarlo, e quindi se il segnale molto compresso risulta poi molto degradato. Così si vedono dei canali in digitale terrestre che si vedono molto male, perché sono eccessivamente compressi, e dei canali in digitale terrestre che si vedono molto bene. C'è un altro equivoco di qualche passante che abbiamo sentito, e diceva tanto già ci sono le TV che sono digitali, cosa serviva a fare anche i canali digitali? Ma proprio perché le TV sono digitali, in realtà si comportano molto meglio con i canali digitali. Chi si ricorda, o chi ha ancora in casa un vecchio tubo catodico, sa che i disturbi di antenna analogica si vedevano, ma non si vedevano tanto. Messi lo stesso canale analogico su un TV LCD, per esempio, i disturbi di antenna analogica sono visibilissimi, danno molto fastidio, proprio perché il TV digitale non è ideale, non è adatto per trasmissioni analogiche. Funziona molto meglio con trasmissioni digitali. Ecco perché se tutta la tecnologia degli apparecchi televisivi passa al digitale, è bene che lo facciano anche le trasmissioni. Uno dei passanti diceva, secondo me è la TV che mi fa vedere meglio, o comunque che migliora le immagini, tant'è che io se guardo l'analogico, il digitale satellitare, il digitale terrestre, vedo tutto uguale. Ecco, qual è il contributo della TV? Il contributo della TV è quello che, il classico contributo che può dare un qualsiasi collo di bottiglia. Cioè, se la TV è analitica e ci permette di vedere bene l'alta qualità dei canali che si vedono bene, ci farà vedere anche la bassa qualità dei canali che si vedono male, indipendentemente dal fatto che questi siano in analogico o in digitale. Cambiano i disturbi. In analogico i disturbi sono gli sdoppiamenti, sono la neve cosiddetta che disturba l'immagine. In digitale sono i problemi di compressione di cui parlavamo prima. Se questo signore vede tutto uguale, non è, come dice, merito del TV, ma probabilmente è demerito del TV, nel senso ha un TV che si vede talmente male che non gli permette di vedere le differenze. Interessante. Sentiamo Allen che ci telefona da Pordenone. Buongiorno Allen. Sì, buongiorno. Io, a prescindere che la TV la uso solo per vedermi il TV o quasi, però mi considero un utilizzatore abbastanza avanzato di tecnologia. E quando ho preso il mio, faccio anche i nomi delle marche, perché sono talmente infuriato che non ho peli sulla lingua. Quando ho preso il mio Panasonic 42 pollici Full HD, meno di 2 anni fa, quindi è ancora in garanzia, sono sicuro che ha 1 anno e mezzo, era uno dei primi dotati con la fatidica ingresso per la cam. L'altro giorno vedo che ormai le cam sono di uso comune, ho detto faccio il pensierino, quasi quasi la prendo, vado sul sito di GTV, do un'occhiata e vedo che non c'è il mio modello. Ho detto ci sarà un errore, sarà il solito refuso, che sono tantissimi modelli, chissà. Mando una mail a Panasonic, mi rispondono in maniera estremamente candida dicendo il tuo modello non è compatibile con le cam bollino bianco di GTV. Io sono esterrefatto. Parliamo di un TV da 1500 euro di meno di 1 anno e mezzo. Le posso dire due cose? Compatibile? Posso dire due cose? La prima è, lei è un ascoltatore frequente di 2024? Io quando non lo ascolto in diretta tento di scaricarlo col podcast. Bravissimo. Ma non sempre. Ecco, questo è un argomento che abbiamo affrontato e mi permetto di dire non è detto che sia colpa di Panasonic, ma forse di DigiTV, sul quale noi abbiamo almeno un po' di critiche. Allora, grazie Allen. Adesso diamo di una aver risposta. Grazie, diamo una risposta, credo, completa. Da un certo punto di vista, diciamo che sarebbe stato molto carino da parte dei produttori che fossero certificati per l'utilizzo con la cam anche i modelli usciti precedentemente al lancio della CAM, e credo che il TV del nostro ascoltatore sia tra questi, perché successivamente al lancio della CAM tutti i TV praticamente Panasonic sono stati certificati. Invece le case, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno scelto di non certificare i TV precedenti al lancio, che ovviamente è un gesto poco fair, diciamo, poco corretto nei confronti di chi ha dato fiducia al marchio e ha acquistato il prodotto. Quindi da questo punto di vista il nostro ascoltatore fa bene a essere infuriato. D'altro canto va detta un'altra cosa: non è detto che il fatto di non essere certificato renda il TV non compatibile con la CAM, ovvero nessuno le garantisce in questo momento che il TV, suo TV, sia compatibile con la CAM. Però se ha un amico che ha una CAM, ecco, la magari la chiede in prestito senza magari far l'acquisto dei 69 euro più o meno che costa la CAM, gliela chiede in prestito per un attimo, vede, non solo si riesce a vedere i programmi criptati, quindi Mediaset Premium o Idalia, secondo quello che vuol vedere, ma si riesce anche a comperare un evento. Se riesce a comperare un evento, allora la CAM è funzionante, almeno fino a prova contraria, anche se nessuno le può dare questa garanzia, perché il TV non è stato portato al consorzio di DGTV e non ha subito tutti i 50 e oltre test che servono per avere questo tipo di certificazione. Quindi è stato evitato questo costo, però magari il software del TV è già pronto, è già compatibile. Non glielo potrà dire mai Panasonic, non glielo potrà dire mai il rivenditore, l'unica cosa che può fare è provare. E magari se è fortunato il suo TV effettivamente è già compatibile, senza che ci sia il bollino bianco, beh, magari una parte della sua arrabbiatura se ne può anche andare, ecco. Diciamo così. A proposito della qualità, quindi del fatto che nel digitale non è detto che le cose siano meglio che nell'analogico, Sergio da Milano ci chiede: quanti canali digitali ci stanno nello spazio occupato da una frequenza analogica terrestre? Dipende, dovrebbero starcene 4, 5, massimo 6. Questo per avere una qualità molto decorosa, però ce ne sono visti anche 10. Per esempio, quando ci sono le partite di campionato, magari nelle ultime giornate del campionato, quando vengono fatte tutte in contemporanea e quindi non ci sono gli anticipi e posticipi, e ci sono tutte le partite sui canali a pagamento, più i canali normali, più, e quindi su questi multiplex, come vengono chiamate queste frequenze con più canali, vengono compressi, infilati, stretti e diciamo anche un po' massacrati fino a 10-11 canali. In questo caso evidentemente siamo a bande assolutamente insufficienti. Basti pensare che la banda netta utile che c'è su una frequenza è di 20 megabit e un canale richiederebbe almeno 4 megabit, un canale in standard definition, almeno 4 megabit per poter essere visto correttamente. Abbiamo un minuto prima di dare la linea a GR24, una risposta molto veloce. Un ascoltatore ci chiede se serve una card per ogni TV. Immagino si riferisca alla card di TVSAT, perché di questo abbiamo parlato poco fa. Sì. Beh, un ricevitore per ogni TV, e la card invece può essere spostata. Però se, voglio vedere su due TV, due canali diversi in contemporanea, ho bisogno di due card. E anche qui non è ancora chiaro come farà Rai a dare più di una card a chi, pur pagando il canone, insomma, dovrebbe averne diritto, perché certo, a un canone non corrisponde un solo TV, non è la tassa di possesso di un singolo TV, ma è una tassa, diciamo così, per ogni nucleo familiare. Certo, quindi se io in casa, in un nucleo familiare, ho tre TV, avrei diritto ad avere tre card. Assolutamente sì, e questo diventa vitale per tutti quelli che sono appunto nelle zone dove effettivamente il digitale terrestre non si riceve. Riprende 2024 in questa puntata speciale con noi Gianfranco Giardina, che è responsabile del sito internet dday.it. Ci sono alcuni ascoltatori che ci hanno chiesto lo spelling. Beh, non è difficile, è come il D-Day quando c'è stato lo sbarco in Normandia. D come domodossola, Day come giorno. Beh, direi D come digital a questo punto. Esatto, Digital Day, cioè D-D-A-Y.it. Più semplice di così non posso spiegare. C'è anche chi ci chiede di ricordare il decoder unico di cui abbiamo parlato spesso in una puntata di 2024 qualche settimana fa, in maniera più approfondita, più esaustiva, che è X-DOME, X come la X di taxi, poi DOME, D-O-M-E, basta con lo spelling, se no. Dunque, vi ricordo due cose. La prima è che questa puntata, come del resto tutte quelle di 2024, sarà disponibile sul nostro sito internet a partire dal pomeriggio del lunedì, e vi ricordo che la cosa più semplice per scaricarle è abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo ci sono dei software particolari molto semplici da utilizzare che vi permettono di scaricare, quindi di fare il download automatico delle nostre puntate. Molti ascoltatori hanno tutte le nostre puntate, quindi se vogliono andarsi a riascoltare qualche cosa di qualche settimana fa o di qualche mese fa, lo fanno in maniera molto semplice e molto comoda. Vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi in questa seconda parte dedicata in modo più approfondito a TV digitale, ma TV al plasma, TV LCD, a questa tecnologia. Dicevo, il numero verde è 824 0024. Gianfranco, per rispondere ad un, per chiarire quello che abbiamo detto che sul digitale terrestre non è detto che la qualità sia migliore dell'analogico, ma potenzialmente lo è. Però spieghiamo, sì. visto che un ascoltatore dice quindi col digitale ci saranno centinaia di canali a scapito della qualità dell'immagine. No, non è così. Non è detto. Se i broadcaster sono corretti e utilizzano la banda in una maniera corretta, avremo molti più canali che grazie alla tecnologia di compressione digitale possono essere inseriti sulla medesima frequenza con una qualità maggiore, uguale o anzi maggiore rispetto alla trasmissione analogica di oggi. Se esagerano con i canali, magari per inserire altri canali a pagamento eccetera eccetera, e beh certo avremo sicuramente molti più canali ma con una qualità anche più bassa. La qualità più bassa, certo, però che la qualità è già oggi, ma sarà sempre di più, un fattore competitivo tra TV. Cioè tra basti pensare alla pressione che c'è attualmente anche in comunicazione sull'alta definizione, è una questione prettamente qualitativa. Ovviamente l'alta definizione occupa più spazio, più banda, e tutto quello che abbiamo detto sui canali fino adesso non vale più, o meglio va modificato secondo i parametri dell'alta definizione. Sentiamo un paio di ascoltatori, poi le voci raccolte da Irene Privitera per la strada. Michele da Verona, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Allora, la mia domanda verte sulla differenza tra plasma e LCD. Io ho sentito diversi centri di distribuzione perché vorrei passare appunto, non il discorso digitale, ma a un televisore un po' più grande, un 50 pollici, perché lo guardo a istante, lo guardo durante la sera. E questo ha fatto sì che alcuni mi hanno detto che per avere delle immagini più vicine al vecchio CRT, cioè al tubo catodico, che è ancora come qualità il migliore, dovrei optare per un plasma. Altri invece continuano a dire che forse è meglio, perché la tecnologia andrà avanti, quindi si diventeranno sempre migliori, poi gli OLED eccetera eccetera, dovrei rimanere su un LCD. Allora a questo punto qua, secondo voi, una vostra opinione, potrebbe essere più valido rimanere su un plasma da 50 pollici perché diciamo ha dei colori più naturali, quindi posso vederlo magari anche in ore serali, quindi affatica meno la vista, o è oggi più conveniente passare un LCD, che anche i prezzi ho visto che si stanno un attimino allineando? Non so poi la differenza in termini di consumi, cioè se è vero che l'LCD consuma meno di un plasma e se il plasma consuma così tanto come un vecchio CRT oppure meno. Ecco, questa è la mia domanda. Michele, lei è già molto bravo, perché la domanda è stata posta molto correttamente, ha detto delle cose che ci fanno capire che lei è istruito, cioè ha studiato molto, insomma comunque si è documentato e sa di che cosa sta parlando. È vero, Gianfranco, che ancora il TV vecchio a tubo catodico è ancora il migliore in assoluto? Diciamo, il tubo catodico ha un'immagine che è assolutamente molto piacevole, si vede molto bene, non dà nessun problema, non dà fastidi, ha un solo grandissimo difetto, che non è più al passo coi tempi perché non è in alta definizione. Quindi il tubo catodico comunque va cambiato, perché oramai siamo dentro fino al collo nell'era dell'alta definizione. La differenza qualitativa dei contenuti in alta definizione è tale da spingersi forza a mandare in pensione il vecchio tubo catodico. Senza spaventare, va cambiato, cioè uno se deve vedere Rai 1 e Canale 5 può anche non cambiarlo. Fino a che non saranno trasmessi in alta definizione, poi verrà la voglia di cambiarlo. Uno potrebbe non cambiarlo mai, ma verrà voglia di cambiarlo soltanto. Allora, vedendo. Io direi, ma il mio consiglio vale poco, che sicuramente un TV al plasma 50 pollici è un'ottima scelta. Però l'esperto sei tu. È un'ottima scelta anche per i motivi di costo. Il costo di un TV al plasma, a crescere soprattutto del polliciaggio, è molto allettante. distante rispetto anche all'LCD, anche se il nostro ascoltatore giustamente osserva che anche gli LCD si stanno riposizionando velocissimamente, praticamente molto vicini ai livelli dei plasma. La qualità, per quanto riguarda la pura e semplice qualità di immagine, poi va, può andare anche a gusti, però non c'è dubbio che il plasma sia ancora una spanna avanti, tanto più che non ha nessun problema di angolo di visione, cioè mentre un LCD oramai ha prestazioni perfette praticamente se visto perfettamente frontalmente, ma spostandoci sui lati le caratteristiche cromatiche e il contrasto decadono, ecco invece un plasma si vede bene da qualsiasi angolazione, e questo è un vantaggio non da poco per alcune situazioni di visione, non per tutte, non necessariamente per tutte. Certo, magari il plasma è meno adatto ad alcuni videogiocatori, soprattutto quelli che usano sempre lo stesso gioco, per i motivi che alla lunga possono avere degli effetti di persistenza che poi si cancellano col tempo, ma possono essere fastidiosi nell'immediato, nelle visioni immediatamente successive alle lunghe sessioni di videogame. Quindi anche qui l'acquisto del TV va valutato nella sua completezza, per quello che fa il TV, anche per quello che fa il software del TV, per la velocità di cambio canale, per la qualità dei menu, per la qualità del design, per la compatibilità magari di avere due apparecchi col medesimo telecomando e quindi magari stare anche sulla stessa marca. Ma per quello che riguarda la sola qualità d'immagine, il consiglio è, per il nostro ascoltatore, vada tranquillo su un plasma di ultima generazione, visto che un 50 pollici sicuramente Full HD e non sarà deluso. Sì, io sono di quel partito, cioè io sono tifo per il plasma, soprattutto per i grandi polliciaggi. C'è, devo dire, molta gente che ha paura di comprare grandi polliciaggi, quindi dice no, troppo grande. Questo è assolutamente un luogo comune, una leggenda metropolitana, dice se il TV è troppo grande fa male agli occhi, invece è vero, è perfettamente il contrario. Se il TV è piccolo, troppo piccolo, affatica la vista e fa male agli occhi. Paolo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, senta, io non sono così esperto come il signor Michele che è intervenuto prima, però ecco, volevo sempre in merito al confronto tecnologia LCD e plasma, volevo capire un attimino se all'interno dell'LCD l'introduzione della tecnologia LED aveva un po' ovviato a questa differenza che soprattutto, come dicevate voi, sui grandi polliciaggi esistono tra l'LCD e il plasma. Anche questa è un'ottima domanda, Paolo, grazie di averci chiamato e buon ascolto. Dunque, ricordiamo che la tecnologia LED è una tecnologia di retroilluminazione, perché gli LCD rimangono LCD, ma invece di esserci dietro al pannello esserci una specie di lampada fluorescente, esatto, certo. Neon, l'illuminazione è fatta a LED. Però per quanto riguarda la qualità dell'immagine, questa tecnologia nuova ha migliorato le cose, Gianfranco? Beh, il LED emette una luce che è più stabile, quindi sicuramente migliore come qualità cromatica, non cambia moltissimo per quello che riguarda l'angolo di visione e quei problemi legati all'angolo di visione dell'LCD, anche se cambia perché stanno migliorando i pannelli, ma non per via della tecnologia LED di per se stessa. Cambia molto lo spessore dei TV, perché quelli LED, specificamente in tecnologia LED Edge, riescono a essere ormai spessi 2 cm, 2 cm e mezzo anche sui grandi polliciaggi, e quindi sicuramente in termini di design c'è un gran contributo, e c'è un altro grande contributo in termini di consumi. Ne parlava anche l'ascoltatore di prima, il plasma consumano un po' di più degli LCD, non cose trascendentali, anzi ci sono dei brutti progetti LCD che consumano più di alcuni buoni plasma, ecco, quindi diciamo che non è proprio una categoria così netta, ma i LED, se possibile, permettono di consumare ancora meno, e quindi sicuramente sono più attenti al fattore consumi. La differenza tra una TV al plasma e una LCD? Sono due tecnologie diverse. Non la conosco. E la signora? Nemmeno io, signora. Io sono un disastro poi su queste cose. Nel plasma, non so, si sfrutta un gas, nell'LCD no, non lo so, quindi così, buttata lì. Non lo so. La TV a plasma è fatta a schermo piatto, mentre la TV LCD è a cristalli liquidi, forse, qualcosa del genere, il contrario. Penso che il plasma abbia lo schermo di vetro. Differenza tra TV al plasma ed LCD? Allora, no, su questo sono molto informato. Allora, secondo me è ancora tecnologicamente valido il plasma, secondo me, perché l'LCD ha ancora dei piccoli difetti. Cioè, per esempio, lateralmente si vede poco, ha ancora un fuoco abbastanza limitato. Preferisco il plasma ancora. Ho capito che l'LCD sarà il futuro, però ancora oggi, per qualche anno, il plasma, secondo me, li batte tutti. Beh, alcuni sono anche divertenti. La TV al plasma è piatta, quell'altra è a cristalli liquidi. Sì, al plasma è piatta. Vabbè, questo sì. è chiaramente un esatto. Semplicemente. Sentiamo Michele che ci telefona da San Donato Milanese. Buongiorno Michele. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, molto interessante. Visto che ci avete spiegato la differenza tra plasma e LCD, io volevo ritornare un po' prima al digitale terrestre, in modo particolare quando si parla adesso che c'è il digitale terrestre in HD e il digitale terrestre non in HD. Poi là, diciamo, mi collego sempre quando saranno disponibili le nuove cam in HD e quando le trasmissioni tipo Rai e Canale 5 trasmetteranno praticamente in HD. Non so se è chiara la domanda. Sì, direi proprio sì. Grazie Michele, grazie anche per le belle parole che spende per noi. Prego. E allora, la cam per l'alta definizione su digitale terrestre, quindi per rendere i TV compatibili con la Common Interface Plus, si vadano tutti a vedere sul manuale del proprio TV se è Common Interface o Common Interface Plus, perché questo è un prerequisito fondamentale. La cam sarà disponibile nelle prime settimane del 2010, quindi fra pochissimo. Si chiamerà anche Cam 2 probabilmente, verrà chiamata in questo modo per distinguerla da quella che non è compatibile con l'alta definizione. Per quanto riguarda Rai e Mediaset, quando trasmetteranno in alta definizione su digitale terrestre, tutti stanno facendo, entrambe stanno facendo le sperimentazioni, sono tecnicamente pronti. Crediamo che comunque le trasmissioni regolari non saranno disponibili fino a che non sarà completato lo switch off, perché soltanto con lo switch off, cioè lo spegnimento di tutte le frequenze analogiche, si libereranno le frequenze necessarie per trasmettere in digitale in alta definizione. In questo momento la banda, quindi le frequenze, sono la merce rara di tutta questa partita, quindi l'alta definizione ne richiede molto spazio, e quindi soltanto a spegnimento delle frequenze analogiche ci sarà una diffusione in alta definizione regolare. Se volete risolvere i vostri problemi, anche se a volte chiudere la porta di fronte ai problemi non è la soluzione giusta, però vi diamo così un consiglio. Fabrizio da Savona ci scrive: ho venduto il mio televisore analogico nel 2000, seguo solo Radio 24 e internet, magari un po' poco, insomma, c'è anche qualcos'altro, però siamo contenti noi. Dice: mi sono perso qualche cosa? Forse no, però ma già, se perso forse un po' delle commedie della TV italiana, intendo dire proprio le commedie delle vicende Mediaset, Sky e tutti questi ricevitori, ecco, però diciamo qualche preoccupazione se l'è risparmiata di sicuro. Certo, diciamo anche che questo è un capitolo che non abbiamo ancora affrontato. Vedere la TV non significa vedere esclusivamente i programmi in diretta. Ci sono, come del resto diceva poco fa un ascoltatore, molti che guardano prevalentemente film, quindi o in DVD o in Blu-ray disc. Assolutamente. Con sì. L'alta definizione. A proposito di Blu-ray, tutte le considerazioni per l'alta definizione che vengono fatte per la TV, quella che riceviamo in diretta via digitale terrestre o via satellitare, per il Blu-ray si devono fare dei distinguo oppure? Sì, assolutamente, i requisiti sono meno stringenti, nel senso che per un Blu-ray, una volta che si ha il lettore di Blu-ray, basta un qualsiasi televisore che sia HD ready o full HD, ma non c'è bisogno che abbia il tuner in alta definizione, non c'è bisogno che abbia la già citata Common Interface Plus, quindi fondamentalmente basta un TV in alta definizione, il lettore Blu-ray, che oramai ha raggiunto costi assolutamente contenuti, ne ho visti nei negozi per questa stagione natalizia anche a 99 euro, quindi il player 99 euro, i film costano sempre meno, e quindi sicuramente il Blu-ray è la prima scelta per chi ha un TV in alta definizione per godere i contenuti in alta definizione. Poi ci sono gli altri canali, però ricordiamo in questo momento l'offerta HD via etere è soltanto Pay, quindi Sky con i suoi 15 canali attuali che diventeranno 30 entro il giugno del 2010 e l'offerta Mediaset Premium HD, che ha fondamentalmente in questo momento il calcio. Tra poco sentiamo un altro nostro ascoltatore, Nello da Roma, però prima vorrevo rispondere, penso molto velocemente, a un ascoltatore che ci chiede informazioni sugli schermi OLED. Per le TV non esistono gli schermi OLED. Ne esiste soltanto una, che è un modello di Sony, 11 pollici, 4.000 euro. Perfetto, arrivederci. Abbiamo già catalogato il prodotto. Nello da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti alla trasmissione, complimenti a tutto quanto lo staff che si dedica alla vostra trasmissione e nostro ovviamente come ascoltatori. Allora guardi, io da un paio di giorni per regalo di Natale ho delle perplessità per quanto riguarda la scelta di un prodotto, di una televisione a LED. In poche parole, esistono delle offerte sul mercato di definizione 2 milioni di contrasto punto 1, in cui mi viene vivamente consigliato una tecnologia di 200 Hz di fedeltà del segnale. Secondo me non so scegliere quale fosse il prodotto migliore, quale sia più all'avanguardia, visto che comunque sia i prezzi sono abbastanza alti. E vorrei avere possibilmente una buona risposta da parte vostra. Grazie Nello, buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo per questo regalo. Gianfranco, io non ho capito, però tu annuivi, quindi hai capito. No, credo che i dubbi siano, intanto sul prendere un TV LED esistono diverse tecnologie, tipi di TV LCD, sempre retroilluminate a LED, e forse qui ci può esserci qualche dubbio su quale scegliere. Quando si parla di rapporti di contrasto come quello citato, 2 milioni a 1, bisogna mettersi in testa che rapporti di contrasto di questo tipo non esistono, nel senso sono dichiarati dalle singole aziende, sono misurati con metodi, diciamo, io dico fantasiosi, mi piglio ovviamente le responsabilità di quello che dico, perché misurando i TV con metodologie rigorose e diciamo secondo gli standard internazionali, i rapporti di contrasto sono di 2001, 2005 a 1, 3000 a 1, ma non certo di 2 milioni a 1. Quindi sicuramente sono state fatte misurazioni, diciamo, un po' particolari. Sono in realtà numeri di marketing che non vanno più presi in considerazione. Sì, gli ha fatto il marketing, le registrazioni. Non vanno più presi. Il rapporto di contrasto non è più un termine che va preso in considerazione. Come ci si orienta allora? Beh, si guarda la qualità dell'immagine con gli occhi. Sono gli occhi lo strumento che dovrà vedere l'immagine. Come? Facendosi venire un po' di sensibilità per la qualità d'immagine. Cosa vuol dire? Gli scuri devono essere, cioè i neri devono essere neri, più neri possibile, non grigi, grigi scuri. Però contemporaneamente tutte le tinte scure non nere, penso per esempio a una giacca scura, non deve diventare una macchia nera compatta, deve vedersi il panneggio cosiddetto, quindi devo vedere le tinte scure pur avendo un nero molto compatto. E questa è la caratteristica più importante del rapporto di contrasto. Quando io vedo un'immagine per esempio che ha come quella che abbiamo davanti sul monitor di servizio, con le bande nere sopra e sotto, e queste bande nere in realtà sono grigio scuro, ecco, già capisco che quel TV non è un buon TV, perché mi offre un nero che non è profondo. Il nero non profondo vuol dire immagine poco incisa, slavata, come se l'avessi, insomma, tanto per farci capire da tutti, come se l'avessi passata in candeggina e con una candeggina anche abbastanza aggressiva. E quindi questo è un aspetto da vedere. Poi magari muoversi sull'asse orizzontale, sull'asse verticale, per vedere se la stabilità dei colori e dell'immagine è costante oppure no. E questo ci può dare un'indicazione su quanto è buono il pannello. Scusa, gli hertz... i megahertz, cioè sì, la frequenza ha un senso? Beh, le immagini non sono a 200 Hz. Se il TV è a 200 Hz fa una rimappatura dei frame, per cui crea dei frame intermedi interpolando il movimento. Per alcuni contenuti può essere utile, rende un'immagine più morbida, con altri contenuti la rende molto più gommosa, diciamo noi, quindi si vedono questi movimenti un po' poco cinematografici. L'importante è che il TV permetta di disattivare la funzione, questa è l'unica cosa che bisogna sincerarsi, perché con alcuni contenuti va bene, ma con altri, per esempio i videogame, vanno assolutamente levati 200 Hz, perché aumentano la latenza e quindi fondamentalmente il giocatore perde la partita perché vede le immagini in ritardo. Quindi sparo a uno, però quello... Spara uno, ma quello si è già spostato. Vedo le immagini in ritardo perché c'è questa elaborazione. Quindi per tutte, bene, le cose che richiedono un'interazione come i videogame, tutti i processi digitali come il 200 Hz non vanno bene. Io ringrazio Gianfranco Giardina per la passione, ma anche e soprattutto la competenza. Vi ricordo maggiori dettagli, li trovate anche su www.dday.it. Sul nostro sito internet troverete la nostra puntata, quindi dal lunedì. Io sono Enrico Pagliarini, grazie per la vostra attenzione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci: 2024 2024 @radio24.it. Noi andiamo in onda sempre il sabato nel pomeriggio tra le 15.30 e le 16.30. Giorgio De Luca ha risposto alle vostre chiamate, ce ne sono ancora molte che purtroppo non facciamo in tempo a mettere in onda. Grazie anche alla regia di Paolo Corleone. Appuntamento con 2024 la prossima settimana. You are disconnected.